Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuta a Raffaele Morelli che è tornata a trovarci. Wow. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, io vorrei che tu mi aiutassi a raccontare quello che c'è dietro a una domanda che voi proponete sul numero in edicola di Rizza. Ma io chi sto imitando? È una domanda che voi suggerite di farsi quando vediamo che, insomma, non ci piacciamo, siamo un po' malinconici, tristanzuoli. Provate a rispondere anche voi. Uno dice, ma come imitando? Io sono io. Questo numero di Rizza è dedicato alla felicità, no? E la felicità è... ha un antagonista, l'imitazione. Tra l'altro, scusa, c'è anche l'agenda della felicità. Sì. Chi sia mai che, avendola sempre sotto mano, uno impari a essere felice, no? Ma guarda, la felicità fa rima con spontaneità e con naturalezza. La felicità è come una fioritura, no? Infatti, i pensieri inutili sono le erbacce. Eh sì, esattamente. Ma io chi sto imitando è una domanda che mi aiuta ad andare verso la felicità? Ma guarda, se noi guardiamo i bambini... I bambini sono grandi imitatori, no? Il drago, vero, il cavaliere. Ma imitano anche noi, i genitori, no? Dai, fai il nonno, dai, fai il papà. Sono grandi imitatori e questo dovrebbe insegnarci che noi apprendiamo spesso per imitazione. Sì. Il problema è che poi ce ne dimentichiamo. A me è capitato molte volte di dire ai miei figli, ma perché non studi, per esempio, anni fa, quando erano più piccoli, erano le stesse parole che diceva mio padre a me, ma io non me ne accorgevo. No, e quante volte diciamo ai figli, alle persone, ai compagni, agli amanti, alle amanti, no? Sul lavoro, agli amici, quante volte diciamo cose che in realtà non sono scaturite dalla nostra spontaneità, ma dal fatto che stiamo imitando. Questo non sarebbe niente se non fosse però che molte volte questa imitazione prende il sopravvento su di noi. Perché vedi, Nicoletta, dentro di noi ci sono due occhi. C'è un occhio spontaneo, naturale, profondo che ci guida, ma che spesso è offuscato da una nebbia che ha il bisogno di imitare gli altri. E questa imitazione... Perché ci dà sicurezza, ci rende simili agli altri a seconda quelle che sono le attese degli altri nei nostri confronti. Ci dà un'apparente sicurezza, però spesso imitando un'amica, no? Imitandola, e noi perdiamo sempre di più il nostro spazio interiore, il nostro spazio vitale, no? Ce ne rendiamo conto con i figli, nell'età dell'adolescenza, quando vediamo che i nostri figli cambiano e spesso ci accorgiamo che diventano quasi la copia del loro amico migliore. Esattamente, esattamente. Allora, siccome nei bambini, negli adolescenti lo vediamo, sì. In noi spesso non lo vediamo. E come spesso... faccio ad accorgermene? Te ne accorgi per il fatto che tutta la tua giornata è scandita dal parere dell'altro o dell'altro, soprattutto nell'amicizia, no? Ma anche nelle relazioni. Quando tu vedi che il tuo spazio vitale, per esempio in molte coppie, per parecchio tempo lo spazio vitale di lei o di lui viene ristretto dalla vita del partner. Frequenta soltanto i suoi amici, fa le cose che piacciono a lei o lui, no? Questo porta continuamente a imitare un modo di essere, ma mentre imiti un modo di essere dell'altro, tu stai perdendo di vista qualche cosa che ti caratterizza, perché alla fine nella vita noi dobbiamo riconoscere il nostro carattere. Perché cosa mi ha insegnato il mio lavoro? Che molte rotture avvengono quando ti accorgi che l'imitazione è diventata talmente forte che tu non esisti più. Molte amicizie, per esempio, che si rompono all'improvviso. Ma come mai, dottore, con tutto quello che ho fatto per lei, come mai, no? È perché in realtà lei non esisteva più. Cioè lei era diventata succube tua o viceversa, no? Allora bisogna sempre stare attenti, no? E chiedersi durante la giornata, ma io sto imitando qualcuno, anche quando stai male, no? Sto imitando perché voglio essere forte come mio padre, no? Sto imitando perché non sono il duro che era lui? Sto imitando perché sono troppo emotivo? Ecco, allora... Come possiamo accorgercene, quindi facendoci questa domanda, in diverse situazioni, soprattutto quando siamo in una condizione di disagio, e soprattutto se ci accorgiamo che stiamo imitando qualcuno, se abbiamo questa famosa maschera che in qualche modo ci protegge perché ci fa sentire accettati, come faccio a togliermela? L'inconscio non ha bisogno della nostra direzione, contrariamente a quello che si pensa. Non è perché io mi dico adesso voglio interrompere questo rapporto che lo interromperò. L'inconscio agisce quanto più io metto consapevolezza e anche impotenza, cioè dire guarda, io non sono contento, no? Sì. Con Giovanna va tutto bene, ma io non sono contento. Nel dirmi non sono contento e nel non intervenire, l'inconscio prende atto e poi interviene lui. all'improvviso, senza accorgersene, vedrai che quel rapporto incomincia ad allontanarsi e tu ti diradi da lui. Nel numero in edicola, il tema del mese propone anche un test che ci aiuta a, dovrebbe aiutare il lettore a capire quanto siamo stretti nei nostri panni. Noi ci sentiamo stretti nei nostri panni, quindi imitiamo qualcuno e poi non ci rendiamo conto che non abbiamo più i nostri desideri, no? I nostri gusti, i nostri sogni, tutto diventa un pochino più sfumato. Guarda, c'è un esercizio che io uso moltissimo in psicoterapia, no? Molte persone mi dicono, ma in realtà la mia vita è molto chiusa, molto stretta, sono in gabbia, no? Oh, io faccio fare questo esercizio molto semplice, no? Signora, chiuda gli occhi. Sì. E ti metti seduto, lo puoi fare in 3-4 minuti, anche meno. Chiudi gli occhi e immagini una scena di altri tempi. Una scena però in cui ridevi, giocavi, no? Una scena divertente della tua vita. Il cervello ci impiega 3-4 secondi a trovarla. A beccare il file. Sì, ci mette pochissimo. Il cervello in quel momento seleziona miliardi di immagini, ma sa subito qual è un'immagine felice. Ecco, in quell'immagine che tu chiami felice, se stai attento bene, ti accorgi che facevi cose che adesso non fai più. Per esempio, un signore mi ha detto, vede dottore, io prima andava tutto bene, adesso sono triste, sono giù di morale, non so perché, eppure guadagno bene, i figli sono cresciuti, no? Ma sì, cosa questa c'è? Insoddisfazione. Un'altra signora per esempio mi dice, sa dottore, io dirigo un laboratorio chimico, no? E ho raggiunto il massimo del successo a 55 anni, no? Però sono scontenta, sono triste, cosa c'è che non va? Allora io ho detto, signora, ma cosa le piaceva? Ma non saprei, chiuda gli occhi. Ah, guardi, lei che è una scienziata, tutta... Ah, dice, sai una cosa che facevo da quando avevo 18 anni? Mi mettevo a ballare davanti allo specchio e poi ogni 5 minuti cambiavo vestito. E mi mettevo un vestito un po' scollato, poi mettevo un vestito castigato, poi mi mettevo la tuta. Insomma, facevo tanti personaggi che ballavano in modo differente. A ogni vestito corrispondeva un ballo differente. Ho detto, signora, può farlo anche adesso? Come adesso? No, adesso no. Come no? Se lo faceva allora, può farlo anche adesso. Ecco, quando stai male, quale immagine hai lasciato fuori dalla tua vita? Perché adesso che sei diventata una scienziata, una donna di successo, perché non pensi che quella immagine della ballerina che cambia abito ogni 5 minuti, perché non pensi che sia importante? Perché non pensi che tutti i popoli della terra, no? Gli animali antichi danzavano? Cioè, portano un para delle cicogne che fanno una danza che sembra il ballo del quadriglio. Si, no? Si avvicinano, si allontanano, fanno la riverenza. Nei nostri albori è presente la danza. Non è che per tu sei diventato uno scienziato devi dimenticarti le immagini, la fantasia, certo, la musica, il suono, no? Ecco. Quindi questo. Chiudiamo gli occhi, andiamo a recuperare il nostro file. Lo fa il cervello da, esatto, solo, da solo, veloce, da solo. Senza che. Tac, lo tira fuori il momento in cui eravamo felici. E lì c'è un dettaglio che probabilmente abbiamo lasciato fuori dalla nostra porta ed è la causa, anche se non dobbiamo mai cercare le cause, di questa nostra apparente infelicità. Ma se grattiamo siamo felici. Grazie a Raffaele Morelli per essere stato grazie con noi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Grazie. È tempo di salutare il dottor Erzegovesi. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta. Il nostro medicuoco quasi cuoco che per tutta questa settimana ci accompagna fino a venerdì con le sue ricette buone, ma soprattutto salutare. Pensate per noi, per voi, per tutti noi, perché oggi dottor Erzegovesi la metto alla prova. Una ricettina per la persona che è particolarmente stressata e quindi si sente stanca. Qui ci sta benissimo una confortevole pasta e broccoli, con i broccoli saltati in padella, con capperi, mandorla tritata e spezie miste. Questo vuol dire. Buonissimo, mi piace anche sin dal mattino. Piace come sapore, ma teniamo conto che le fibre presenti nel broccolo, gli antiossidanti potentissimi presenti in tutte le crocifere, quindi broccolo compreso, soprattutto il sulforafano. Teniamo conto tutte quelle che sono le componenti antiossidanti, ma in qualche modo anche regolatrici dei batteri intestinali. Ricordiamoci, intestino-cervello, c'è un'autostrada che li collega. Sono tutti alimenti che possono aiutarci a guadagnare. Non illudiamoci di guadagnare un buon umore con un piatto, ma però sappiamo che se li mangiassimo tutti i giorni sicuramente il nostro umore se ne potrà giovare. Quindi broccoli velocissimi, cimette piccole, cestellino del vapore, lo mettiamo in una vaporiera, o meglio ancora lo mettiamo in una pentola a pressione. Chiudiamo, quando siamo arrivati che è andato in pressione, già subito lo togliamo. Quindi tempo proprio 30 secondi da quando è in pressione. Bello verde sarà il broccolo e bello ricco di tutte le sostanze utili. Pasta cotta, la mescoliamo, una pasta corta va bene perché si mescola meglio, sempre al dente mi raccomando, l'indice glicemico deve essere basso, buttiamo tutto in padella, ci mettiamo capperi tritati, origano, timo, se siamo amanti del piccante una bella spruzzata di peperoncino, mescoliamo tutto bene, lasciamo riposare un attimo, gustiamolo con la sicurezza di essere ben sazi e con un umore migliore. E l'acciuga e le mandorle? Ah, mi sono dimenticato, vede, ha ragione. Vede che adesso domani le faccio fare una ricettina per la memoria. La memoria mamma mia, è fallata. Io, Assolutamente l'acciuga, quindi omega 3, quindi grassi buoni, spezzettata dentro, la mandorla che dà croccantezza. Alla melle o a granella. E vai, come una pioggia. Stupenda. Noi ci sentiamo a mezzogiorno, ricordatevelo, mi raccomando.